Senza frontiere 26, sempre su Radio Wombat, sempre il lunedì alle 14 circa, e in replica il mercoledì alle 17 e il venerdì alle 9 la mattina. Senza frontiere diventa per questa trasmissione ancora una volta Senza Fronteras, con una corrispondenza da Valencia incentrata sulla solidarietà con il popolo palestinese, in particolare su BDS, Boycott Divestment Sanctions, movimento che porta avanti boicottaggio e disinvestimento nei confronti di Israele. E una puntata costituita da due interviste, una a Laura di The Scope, che parla appunto in una forma più generale, no, dei movimenti di boicottaggio contro Israele in Spagna, in particolare a Valencia, e una seconda intervista a Joan Bartomeu, che è un avvocato che difende i diritti di alcune compagne accusate nell'ambito di questa campagna di boicottaggio. Due pezzi musicali: il primo è Fermi Muguruza con Yala Yala Ramallah, il secondo è Sharia Mansour insieme a M1 dei Dead Press, Al Kufia Harabeya. Buon ascolto. Salve, ciao a tutti e tutte, siamo qui con Laura, una compagna italiana che è a Madrid e che ci spiegherà un po' di cose sul BDS, su quello che fa. Ciao Laura. Ciao a tutte. E niente, inizierei subito, immediatamente all'intervista. Ci spieghi un po' chi sei, che fai e qual è la tua traiettoria politica? Va bene, dunque io sono da qualche anno a Madrid, più o meno 6 anni, e sto lavorando adesso per Sodepaz, che è un'ONG spagnola che lavora, diciamo, in vari paesi, però soprattutto in Cuba e in Palestina. E scusami se ogni tanto mi andrà la lingua allo spagnolo, però purtroppo sono abituata a parlare di queste cose in spagnolo. E diciamo che Sodepaz nasce a Cuba con un viaggio di alcuni medici spagnoli che volevano andare a studiare sanità pubblica lì a Cuba, che era una cosa molto rinomata nel momento, negli anni Ottanta, e l'idea nasce soprattutto come organizzazione per diciamo appoggiare la solidarietà con certi movimenti politici in America Latina che erano nati in quel momento, e insomma per appoggiare anche il processo di Cuba di quegli anni. E a partire da questo si è pensato poi a formare una ONG e lavorare un po' il tema della cooperazione internazionale, però diciamo non nel modo più normale in cui siamo abituati a vedere le ONG, però insomma con un impegno politico molto più marcato e evidente. Per questo anche siamo in Palestina, che è dove sono io adesso, e dove lavoriamo, diciamo, diversi temi, anche soprattutto di salute, e con i prigionieri politici palestinesi. Lavoriamo qui con una ONG che si chiama Adamir, che significa coscienza in arabo, e che lavora precisamente per dare appoggio legale ai prigionieri politici. E quindi insomma per questo adesso sono qui seguendo alcuni progetti, e attraverso insomma del lavoro che facciamo collaboriamo molto con il BDS. Io non sono, diciamo, direttamente attiva come volontaria del BDS, però sì, ci coordiniamo abbastanza con loro per varie attività, diciamo. Ho capito. Sì, credo molti compagni, compagne e compagni conoscono il BDS perché anche in Italia è abbastanza famoso. Potresti farci un breve excursus di come è nato il BDS, quali sono i suoi obiettivi e come funziona lo Stato spagnolo, anche se tu non sei dentro, però insomma... Sì, ho molto contatto con loro, quindi più o meno posso rispondere. Diciamo, l'idea del BDS, che vuol dire boicott, disinversioni e sanzioni a Israele, è nata più o meno nel 2005, con, diciamo, grazie all'idea del collettivo, insomma, dei vari collettivi qui palestinesi, per formare una campagna internazionale per spingere Israele a rispettare le leggi internazionali che quotidianamente non rispetta qui in Palestina. E si ispira un po' alla lotta anti-apartheid del Sudafrica, perché era appunto questo movimento internazionale di appoggio e di solidarietà con la lotta del popolo palestino. E diciamo, i suoi obiettivi principali sono 3 fondamentalmente, ed è la fine dell'occupazione e della colonizzazione della Palestina attraverso Così dice mio Dio. Dillo in La castellano. distruzione, sì, la Ah, distruzione del muro, sai che dal 2002 è stato costruito un muro certo. attraverso, lungo tutti i confini che in teoria avevano sancito le Nazioni Unite per dividere la parte di territorio israeliano del palestinese. E quindi c'è questo muro enorme, tutti gli spostamenti fra Israele e Palestina sono controllati da checkpoint e dai militari israeliani. E per far terminare anche il blocco su Gaza, che è sempre più in una situazione di disastro umanitario tremendo. E il secondo obiettivo è che i palestinesi, che sono cittadini israeliani, abbiano un'uguaglianza di diritti con i cittadini stessi israeliani, perché purtroppo non è così. I palestinesi che dal 48, quando si è fondato lo Stato di Israele, hanno potuto rimanere dentro del territorio israeliano, che quindi hanno avuto una cittadinanza israeliana, non hanno ovviamente gli stessi diritti di cittadini israeliani, e perché non hanno accesso a servizi, come acqua, educazione, servizi medici, né niente, hanno molte restrizioni di movimento. E il terzo obiettivo fondamentale è poi il diritto al ritorno, che è sancito dalla risoluzione 194, famosissima, delle Nazioni Unite, per cui tutti i rifugiati a partire del 48 che sono stati cacciati dai territori israeliani, con tutta una serie di processi di pulizia etnica che tra l'altro è ancora in corso e a momenti più o meno intensi. E il senso è che tutti questi rifugiati possano ritornare nelle loro case, e diciamo il punto un po' più contraddittorio, perché ovviamente sappiamo che molti dei paesi e delle città palestinesi che sono state occupate durante la creazione di Israele non esistono più, molte case sono state occupate da cittadini israeliani, e quindi è, diciamo, insomma, la questione più difficile da affrontare, anche perché ovviamente Israele non ne vuole sapere niente di di tutti questi punti. Non so, qualcos'altro? Ah sì, come funziona lo Stato Sì, spagnolo. funziona. Diciamo, in tutto il mondo è il BNC, la campagna nazionale di boicott Palestina, quella che è un po' il comando centrale di tutte le operazioni, che dirige un po' tutte le campagne a livello internazionale. Poi però sappiamo che fuori dalla Palestina, in ogni paese, ci sono dei comitati di BDS, e io penso che in Spagna più o meno funzioni come in tutti gli altri paesi: ogni città, ogni, diciamo, anche paese piccolo ha il proprio comitato di BDS, e si gestionano poi a livello nazionale. E tra l'altro in Spagna si è formata anche la RESCOP, che è una rete sempre di solidarietà con la causa palestina, e diciamo lavorano un po' in simbiosi le due organizzazioni. Capito. Senti, da Israele no, arrivano un po' di voci critiche, non solo da Israele in realtà, anche un po' dagli Stati Uniti, ma anche dall'Europa stessa, che dicono che il BDS è contro gli ebrei, contro tutti i cittadini dello Stato di Israele. Ci puoi spiegare un po' la vostra posizione? Sì, certo, questa è un po', diciamo, la strategia più importante e fondamentale di Israele, quella di relazionarsi direttamente con tutta la popolazione ebrea del mondo. È un po' il suo punto forte, il dire che Israele rappresenta gli ebrei nel mondo, ma sappiamo benissimo che non è così. Tra l'altro ci sono molte organizzazioni di ebrei antisionisti, come Jewish Voice for Peace o altre in Spagna, che sono gli ebrei antisionisti, che ovviamente si oppongono a questa idea di che qualsiasi critica allo Stato di Israele, e quindi al sionismo, deve essere per forza un antisemitismo. Noi facciamo molto, diciamo, lavoriamo molto come BDS su questa cosa, e di differenziare le due cose, perché la critica a Israele e al sionismo in quanto ideologia politica è una critica diciamo, al tipo di Stato che c'è qui in Israele, che è uno Stato razzista, che implementa l'apartheid contro tutta la popolazione palestina, e che, come ho già detto, dal 48 ha iniziato tutto un sistema di pulizia etnica qui in Palestina, che non è assolutamente tollerabile, e tra l'altro va in contro di tutte le leggi e i trattati internazionali che sono stati firmati da Israele o dalle Nazioni Unite, o insomma da qualsiasi tipo di trattato internazionale. Sulle campagne del BS Spagna, quali sono quelle attive? Ci puoi spiegare un po' come stanno andando? Dunque, diciamo che ci sono tutta una serie di campagne che sono più o meno stabili, nel senso che durano da molti anni e che continuano ad essere attive, come quella contro HP, la società appunto elettronica di computer, diciamo, che lavora nei checkpoint, nei punti di sicurezza israeliani militari, e anche un'altra contro G4S, che è una compagnia sempre di sicurezza inglese, che anche lavora nei checkpoint. Quindi queste sono le grandi campagne contro cui sempre il BDS, a cui il BDS sempre appoggia. E poi ultimamente bisogna parlare della campagna contro Eurovisione 2019, che vabbè, più o meno, insomma, non so se in Italia non è così famoso come in No, Spagna, in infatti realtà. sarebbe interessante spiegarlo perché in Italia l'Eurovisione penso che lo vede forse qualche Sì, persona, no, neanche mia nonna praticamente. qui invece è una cosa pazzesca, no? Quando arriviamo qua e vediamo che c'è tutto questo seguito, anche fra i compagni e le compagne, devo dire, al di là di tutto, no? Mo quest'anno c'è tutta sta roba che magari ci spiega adesso, però è un po' strano, no? Fa strano, direi io. Sì, no, in Spagna va molto forte. Praticamente Eurovisione è un concorso a livello europeo di cantanti e partecipa un cantante, lo fanno ogni anno, partecipa un cantante per ogni paese europeo e poi, insomma, attraverso il televoto, le solite cose di questi concorsi, così si decide chi vince. E siccome l'anno scorso aveva fatto abbastanza scalpore il fatto che vincesse una cantante israeliana, credo che si chiama Anetta Netta, Sì, buona ragione. e praticamente la regola è che il cantante del paese, cioè quando vince il cantante di un paese, l'anno dopo Eurovisione, il concorso si fa nel paese del cantante che ha vinto. Quindi quest'anno in teoria toccherebbe a Israele ospitare questo festival di Eurovisione, invitando tutti i cantanti a venire a Israele a cantare e tutto, diciamo, il glamour, queste cose che porta con sé questo tipo di eventi. E quindi adesso è fortissima in Spagna la campagna contro l'Eurovisione per chiedere a tutti i cantanti di tutti i paesi europei di boicottare e di non andare a questo festival in Israele, mettendo in evidenza tutte le violazioni dei diritti umani che Israele fa contro i palestinesi. Perché è importante questa cosa anche? Perché diciamo da diversi anni Israele partecipa, diciamo, in questo concorso, che è un concorso europeo. Quindi anche questo è parte, diciamo, di tutta la strategia e la diplomazia israeliana per farsi considerare un paese europeo a tutti gli effetti, quando in realtà sappiamo benissimo che non lo è. Quindi, insomma, sono queste due cose: mettere in evidenza il fatto che Israele vuole partecipare a concorsi o in generale a qualsiasi cosa si organizzi nell'Unione Europea, e chiedere a tutti i cantanti di non partecipare. Tra l'altro, credo che in Irlanda già hanno deciso che non parteciperanno a Eurovisione quest'anno. Yalla, yalla, Ramala. Fare. Hortik pasatzeko gizaki askea pasotzeko gizarte hobe bat. Yala, yala, Ramala. Yala, yala, Ramala. Yala, yala, Ramala. Yala, yala, Ramala. Ha, kasaba zineman, budialen Melinda, paradise, orain da. Yala, yala, Ramala. Yala, yala, Ramala. Yala, yala, Ramala. Yala, yala, Ramala. Yala, yala, yala, Ramala. Palestina, nice. Yala, yala, yala, Ramala. Esa non ta Julia. Yala, yala, yala, Ramala. Balconza, my yala, yala, yala, Ramala. نمشو في رمالة يلا نمشي ونزور في العائلة والأصحاب نمشي في فلسطين فلسطين الحرة نمشي في حفلة رمالة يلا يلا يلا يلا يلا يلا رمالة يلا يلا رمالة يلا يلا رمالة يلا يلا No, tra parentesi, Israele no, fa sempre un tentativo di washing, no? Di lavare la propria immagine attraverso appunto soprattutto operazioni culturali o semiculturali come può essere musica, università, eccetera, e presentandosi al mondo, un po' l'hai detto tu all'inizio, comunque come uno Stato democratico, laico, dove ci sono diritti per tutti. Qual è la vostra posizione? Sì, noi critichiamo fortemente questa, ovviamente queste prove di Israele per farsi presentarsi in questo modo in tutto il mondo. E sì, quello che hai detto tu, di anche a livello culturale, accademico, quello fa tutto parte, diciamo, di varie di varie parti in cui si divide il boicott. Il boicott, certo, non è solo accademico, ma è anche economico, scusami, ma anche culturale, accademico, riferito allo sport. C'è stata una campagna anche contro la FIFA, sì, per tutte le partite con la nazionale israeliana di calcio, e quindi bisogna sempre mettere in evidenza quando Israele fa queste cose. E poi anche per il washing, quello che tu dicevi, che è la più famosa, diciamo, quello che chiamiamo pink washing, sì, quindi il voler vendere Israele come uno stato aperto a tutti i diritti delle persone del collettivo LGTB. E diciamo è anche un modo per posizionarsi come diciamo un paese moderno e in contrasto con quello che possiamo, diciamo, quello che comunemente pensiamo, il mondo musulmano, che relazioniamo con i palestinesi, che ci sembra sempre molto più chiuso rispetto a tutta questa serie di diritti, anche se poi in realtà non lo è. Certo. Tra l'altro, ecco, il Gay Pride di Tel Aviv negli ultimi anni sta diventando come, diciamo, un evento internazionale importantissimo per molta gente, appunto, che appartiene a questi collettivi. Però è importante, diciamo, risaltare che soprattutto in Spagna e a Madrid in particolare ci sono molti collettivi LGTB che sono incontro di questo pink washing e che organizzano anche a Madrid, soprattutto organizzano un gay pride alternativo dove non partecipa Israele né nessun altro tipo di cose, e si parla anche di queste tecniche di pink washing, quindi mi sembra una cosa molto importante. Senti, per andare un po' sull'attualità, no? Da un mese più o meno, un mese e mezzo a questa parte, il BDS, quindi lo Stato spagnolo, è su tutti i giornali per accusa di antisemitismo e delitto d'odio in relazione ai fatti che hanno avuto, che ci furono nell'agosto del 2015 durante il festival Rototom Sunsplash, che in Italia conosciamo bene perché si svolgeva in Italia un tempo, adesso si svolge a Benicàssim, qui nel Paese Valenziano, a qualche chilometro da Valencia. Se ci puoi spiegare brevemente i fatti, e volevo sapere un po' di cose sulla campagna Difendiamo i diritti umani, iniziata proprio per rispondere a queste accuse. Sì, certo. Dunque, nel 2015 era previsto nel programma del Rototom Sunsplash la partecipazione di Mati Siahu, spero averlo pronunciato bene, che è un cantante statunitense sionista che, diciamo, durante gli anni si era più o meno reso famoso perché aveva fatto varie dichiarazioni, diciamo, appoggiando Israele, appoggiando la politica di apartheid di Israele, appoggiando l'esercito. Lui è membro dell'Associazione di Amici dell'Esercito Israeliano, che è un'associazione che negli Stati Uniti ha come, boh, un sacco di soci, molto appoggio anche da parte di diversi attori hollywoodiani che non ci immagineremo mai, però insomma molto molto appoggio negli Stati Uniti. E quindi in base a questo e in base anche a quello che si suppone che è la filosofia dietro il Rototom Sunsplash, di rispetto dei diritti umani e di tutta una serie di cose, e si era chiesto la cancellazione dello spettacolo del cantante, di Matisse Yahoo. E diciamo è stato un momento, una cosa un po' controversa, perché all'inizio gli organizzatori del Rototom hanno accettato diciamo, la richiesta del comitato di BDS, anche se poi hanno subito, diciamo, varie pressioni da parte di tutte le lobby sioniste nello Stato spagnolo. E alla fine mi hanno chiesto, diciamo, al cantante di fare una dichiarazione, di posizionarsi a favore dei palestinesi, cosa che alla fine non è stata fatta, e il cantante ha partecipato ugualmente al festival. Dopo, diciamo, tutti i fatti, come hai detto tu, a gennaio è iniziato un processo contro 8 attivisti, per i quali tra l'altro si chiede 4 anni di carcere, quindi neanche una cosa da poco. E appunto l'accusa è di delitto di odio, che è una cosa che si usa molto adesso in Spagna, sì, molto di moda, perché diciamo se li accusa di antisemitismo perché non volevano che il cantante partecipasse al festival. E diciamo, la persona che, diciamo, sì, la persona giuridica che ha fatto la denuncia è il Comitato Legale contro l'antisemitismo e la discriminazione, che è un'associazione spagnola che si dedica praticamente a questo tipo di cose. Voglio dire, negli ultimi anni la persecuzione contro gli attivisti pro-palestinesi in Spagna è stata molto dura, anche nel resto d'Europa, però insomma, concentrandoci in Spagna, è stata molto dura ed è parte sempre di una strategia israeliana per intentare colpabilizzare gli attivisti e parare un po', fermare un po' tutto l'attivismo a favore del BDS. Quindi si intenta sempre strumentalizzare questo tipo di azioni e si intenta silenziare la gente che protesta. Certo. E a gennaio, diciamo, durante il processo, gli 8 attivisti hanno deciso di non dichiarare durante il processo e adesso siamo un po' all'attesa di quello che succederà. A partire da tutto questo è nata appunto la campagna che dicevi tu di Difendiamo i diritti umani, che è appunto una campagna per mettere in evidenza tutto il processo che è successo. Questo è solo un esempio, però passa, diciamo, succede molto spesso che si accusino degli attivisti in questo modo e si vulneri la libertà d'espressione. Diciamo sì, quello che si può fare è aderire un po' alla campagna e cercare di trovare più appoggi possibili per creare appunto, per intentare avere più forza nel momento in cui succedono queste cose. Ma facendo un passo indietro, no? Io volevo chiederti anche a te, come italiana che sta vivendo a Madrid, eccetera. Questa campagna contro il boicottaggio, per spiegare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, in realtà fu una campagna appunto destinata perché si voleva convincere Rototom Festival a cancellare, come hai detto tu, l'invito a questo cantante, a Matisse Yahu, spero di pronunciarlo bene, anch'io non lo so, l'ebraico mi sfugge, per quello che tu hai spiegato, insomma, che è un attivista pro-Israele, amico dell'esercito israeliano, eccetera, eccetera, eccetera. Questa campagna, ripeto, per cancellare, avvenne attraverso i canali pubblici e le reti sociali, soprattutto in Twitter. E da questo è partito tutto la cosa che ci hai raccontato tu. Credi, faccio un altro salto, no? Anche rispetto a tutto quello che sta succedendo a chi fa Twitter contro il re piuttosto che a favore di quello che succede in Catalogna, o piuttosto fa un Twitter sarcastico riprendendo alcune cose di ETA, eccetera, eccetera. Stiamo vedendo che stanno iniziando dei processi gravi, c'è gente che sta in esilio, eccetera, eccetera, eccetera. Abbiamo già parlato in questa trasmissione. Tu pensi che adesso l'esercizio della libertà d'espressione e l'azione politica non violenta siano in pericolo nello Stato spagnolo? Ma sì, sicuramente, è chiaro già da appunto quello che tu stai dicendo, da qualche anno che la situazione sta diventando sempre più critica. C'è gente appunto che sta affrontando dei processi, che incluso è stata condannata per dei tweet, che insomma è una cosa abbastanza. In Italia ancora non è successo, ma vabbè, io non sono molto positiva sul processo anche in Italia. Però sì, diciamo è tremendo ed è un po' su tutti i livelli, non solo sui tweet, ma anche su qualsiasi atto di partecipazione, magari una manifestazione o qualsiasi cosa. Diversi rapper spagnoli anche stanno affrontando e hanno affrontato dei processi per dei testi delle loro canzoni, che è una cosa insomma un po' da medioevo, diciamo. E Willy Toledo, anche che è un comico qui spagnolo molto famoso, che sta adesso in un processo perché ha bestemmiato non so se in televisione, in radio, comunque pubblicamente. E sì, è una cosa molto preoccupante, insomma, perché certo prova, diciamo, a minare qualsiasi libertà che tu hai di espressione, volendo farti stare zitto e pensando che in questo modo si risolve la maggior parte dei problemi. E tra l'altro, mi sono appena ricordata di una cosa importante che volevo commentare, che è più o meno sullo stesso tema. 2 settimane fa, più o meno, c'è stata una censura importantissima da parte penso dal vescovo stesso di Madrid, su una proiezione che volevano fare di un documentario su Gaza, che è un documentario che tra l'altro ha vinto la sezione dei Goya, che sono i premi del cinema spagnolo, e la sezione dei documentari corti. E praticamente, giusto in concomitanza con i premi dei Goya, si voleva proiettare questo documentario e la San Carlos Borromeo, che è una chiesa, diciamo, della periferia di Madrid, tra l'altro vicino a dove vivo io, a Vallecas, che è comunque sempre molto attiva in tema di rifugiati, in tema sociali, di mobilitazioni politiche, e ha avuto, diciamo, l'ordine dall'alto che non poteva, diciamo, far vedere questo documentario. Sì, Scusate. sono stato tranquillo. Sì, questo documentario nella chiesa, perché era considerato antisemita anche questo, quindi anche qui è un documentario che spiega la situazione in cui si trova Gaza in questo momento, che è considerato antisemita perché critica leggermente, cioè leggermente no, diciamo critica quello che fa lo Stato di Israele a Gaza. Però insomma, diciamo che per adesso è andata bene perché c'è stata una risposta molto molto attiva di moltissimi collettivi e spazi sociali a Madrid. È stato, diciamo, una censura mal riuscita, perché nell'ultima settimana si è proiettato praticamente in qualsiasi spazio possibile a Madrid e ha avuto una pubblicità molto maggiore di quello che avrebbe avuto altrimenti. Quindi insomma, vediamo che anche la risposta a questi, diciamo, tentativi di toglierci la libertà di espressione sono comunque sempre molto forti, e questo ci dà un po' di speranza. Certo. Senti, ti faccio un'ultima domanda sulla campagna, appunto, Difendiamo i diritti umani di cui abbiamo parlato. Tu cosa pensi, voi cosa pensate possiamo fare noi compagni e compagne in Italia? Dunque, la cosa più importante è aderire alla campagna. Il sito della campagna, che ce l'ho scritto qui, è Defensem, dhh, che sarebbe drecciosumanos.wordpress.com, quindi si può entrare nella pagina, si legge il comunicato che è anche in italiano, l'ho controllato giusto prima, sì, e si può aderire come persone, come associazioni, eccetera, alla campagna e diffondere un po' i tweet, qualsiasi cosa, tanto della campagna come della pagina del BBS del País Valencià, che è quella che tiene più aggiornato questo tema, e anche più in generale, diciamo, si può appoggiare la campagna di Eurovisione, come ho detto prima, che è quella principale e attiva adesso in Spagna, e si può accedere anche dalla pagina di bdsitalia.org a tutte le campagne, a tutte le notizie dei BDS nel mondo e vedere come possiamo fare. In tutte le pagine di BDS c'è sempre anche una lista di tutti i prodotti da boicotteare, che insomma viene sempre utile, perché è un po', non sai mai alla fine se da dove vengono i prodotti e come sono fatti, e molte volte i dattili e patate, per esempio in Spagna, la maggior parte di quelli che si vendono nel Mercadona, che è come il supermercato più famoso in Spagna, sono di Israele, e quindi è importante saperlo per evitare di comprarli, perché sono prodotti fatti sfruttando praticamente i territori palestinesi occupati. Va bene Laura, noi ti ringraziamo, sei stata gentilissima e hai spiegato tutto molto bene, ti auguriamo buona lotta e a risentirci presto. Grazie a voi. فضلوا شرفونا شو بتحب مضيفكم دم عربي ولا دموع من عيوننا بعتقد هيك تأملوا نستقبل من هيك تعقدوا لما تدركموا على غلطة من هيك لبسنا الكوفي البيضة والسودة صاروا كلاب الزمان يلبسوها كمودة مهما تفننوا فيها مهما غيروا بلونها كوفية عربية بتضل عربية حطتنا بدنا إياه ثقافتنا بدنا إياه كرامتنا بدنا إياه كل شي إلنا بدنا إياه ما راح نسكت لن نسمح لن ليك ليك لا بقلن يسرقوا شغلة مش إلهن ما خصن فيه قلدونا بلتبس لبس هالأرض بتكفي هنش طمعانين عالقدس قدس اعرفوا كيف كونوا بشر عربي إلنا بتلبسوا كوفي جينا نذكرن مين إحنا وغصب عن أبوهم هي حطتنا من هيك لبسنا الكوفي لأنا وطنية الكوفي كوفي عربي من هيك لبسنا الكوفي هويتنا الأساسية الكوفي كوفي عربي يلا علي الكوفي علولي هالكوفية الكوفي تراثنا الشاهد على وجودنا من هيك لبست الثوب الفلسطيني من حفا جنين جبل النار الى رام الله خليني اشوف الكوفيه البيضة والحمرة خلينا نعليها لفوق بالسما انا هجاه ديت العرب الثاني بخص غزه الثاني بهز هزكلي ماتي حرب سجل انا شاد يا منصور والحطة هويتي من يوم ما خلقت سيدي والشعب مسؤوليتي لك انا تربيت بين الغرب وبين الشرق بين لغتين بين بخيل بين فقير شفت الحياة من الشقتين سنة مثل الكوفية كيف ما لبستوني وين ما شلحتوني بضلني عأصولي فلسطينية من هيك لبسنا الكوفية لأننا وطنية الكوفية كوفية عربي من هيك لبسنا الكوفية هويتنا الأساسية الكوفية كوفية عربي يلا علي الكوفية علولي هالكوفية الكوفية كوفية عربي علوه هلا بلاد الشام كوفية عربي My bandana ain't no rag. The kafia ain't no scarf. It's a part of the movement. The Symbolism is resistance, no coincidence that you can see the RBG in it. Cable meet the bandera, ain't it beautiful? I say it in Spanish, it's solidarity, the feelings is mutual. Meanwhile, high, that's M1 in Arabic. I'm pro-Falastini, does that make me a terrorist? You can catch me in Gaza, in Haifa or Ramallah, but I'm still just Mutulu Olubala. So when I rep the Shaja, we rhyme with our middle fingers up to the Zionists, cause we don't give a fuck, it's justice. So tie that thing around your head and ride, wave it in the air and let me know what side you on. Uhuru, yeah. The kufir is Arab. Yeah, it's M1. Solidarity, feel me, Shaja. Do it. From the ghetto to Gaza, I keep it RBG up. Yeah. Bang for my flag. Siamo qui con Joan, l'avvocato di delle compagne indagate per la questione del Rototom, che adesso un po' ci racconterà Joan. E niente, buongiorno Joan. Ciao, buongiorno a tutti e a tutte chi ci sentono. Io sono Joan Bertomeu, sono avvocato dello studio giuridico e legale Brochenberg e sono uno dei sei avvocati che lavoriamo nella difesa dei compagni e compagne del BDS che sono accusati di reato di odio e di estorsione e ricatto, non so si dice, e per la campagna fatta nel 2015 per il concerto di Matis Yahu, che c'era una parte della società civile di qui che difendeva che Matis Yahu non doveva attuare in questo festival per le idee che si pensa che Rototom ha rispetto al conflitto di Israele e Palestina e più in generale di rispetto ai diritti umani e la legge, e il diritto internazionale. La vostra difesa si basa sul fatto che non si possono chiedere 4 anni di prigione per difendere i diritti umani. È così? In particolare io quello che penso è che non deve essere né 4 né 1 né 3 mesi. Voglio dire, i fatti che la denuncia di loro spiega, secondo me non hanno nessuna trascendenza penale in nessun caso, perché non sono fatti reattivi. Per quello io penso non solo che devono essere soldi, se no per me in questo processo non ha nessun senso. Certo. Questa la possiamo considerare una violazione della libertà d'espressione, perché stiamo parlando sempre di Twitter, il tentativo di criminalizzare il diritto democratico a difendere i diritti umani sia nel nostro territorio sia internazionalmente è una violazione di questa libertà? Sì, ovvio. Anche ci sono c'è anche il discorso di difendere di fare la difesa anche in quello che riguarda il processo penale e denunciare cose che si fanno male nel processo, che può diventare nella nullità del processo. C'è una parte di difesa, diciamo, tecnica, giuridica, c'è un'altra parte politica, no? E il nostro lavoro è un po' di fare le due difese in ogni momento, quella che conviene in più, ma ovviamente quello che alla fine questo processo, quello che è in gioco è i diritti umani di quelli che difendono i diritti umani, la libertà di espressione e in questo caso la solidarietà con il popolo palestino. Certo. Si potrebbe fare appello alla Corte di Strasburgo? Si potrebbe fare, sì, ma io aspetto che non c'è bisogno di arrivare. Secondo me questo processo deve finire con una verdetta per scioglimento, è quello che io penso. Sì, io sono di chi hanno più fiducia nel buon risultato di questo processo. Ci sono gli altri che già pensano in Strasburgo, quindi, ma sì, si potrebbe arrivare, ma secondo me io aspetto di che non c'è bisogno. Ti faccio un'ultima domanda proprio a livello di legale. Dopo tutte queste cose che stiamo vedendo, no? Le persone che devono scappare, tipo Valtoni, tutto questo per Twitter, canzoni, eccetera. Pensi che in Spagna c'è un problema di libertà d'espressione? Sì, è ovvio che c'è un problema perché ci stiamo trovando di c'è da una parte quello che sono i reati di odio che prima si avevano fatto per difendere a quelle popolazioni che sono minorie etniche, diciamo il collettivo LGTB, le vittime dei reati razzisti, e alla fine, quando questo reato si è iniziato a utilizzare per i procuratori spagnoli, vengono denunciate persone che dicono qualcosa che non piace alla polizia, qualcosa che non piace al re. C'è anche un altro reato che è quello che no, tu non puoi. Diciamo squalificare il re spagnolo. C'è un altro reato che è quello di fare, diciamo, di fare un po' campagna di terrorismo, e alla fine si mischiano molti concetti che si prendono. Parliamo delle leggi penali che qui in Spagna si interpretano in modo espansivo, invece di fare ridurre questi tipi penali, e secondo me non dovrebbero esistere. Il problema qui in Spagna è che quando l'estrema destra fa uso di questa espressione non ha nessuna punizione, ma quando le fanno quelli del nostro lato, diciamo, qui sì che abbiamo dei problemi. Ma alla fine io penso che si potrebbe dire tutto, veramente. Anche quello che a me non piace sentire, ma penso che tutto si deve poter dire se siamo in uno stato di diritto e dove esistono i diritti fondamentali. Ma qui in Spagna non è che tutto non si può dire, ma ci sono alcuni che si possono dire tutto. Alcune persone possono parlare, altre persone possono parlare. Esatto, invece qui in Valencia è molto conosciuta l'attività dell'estrema destra, e mai nessuno di loro ha avuto nessun problema in questo senso. Ma invece Valtoni ha dovuto andare a Belgica, o Pablo Hasél aspettando prigione, e questi compagni che io difendo, e io e altre mie compagne avvocate, e rischiano 4 anni di prigione. Ma in quello che riguarda questo caso, secondo me, io aspetto un buon risultato, perché quello che stanno facendo questa associazione, che invece non è il proprio Matisse Jafo che ha iniziato questo processo, sino che parliamo di un'accusazione popolare, a dire un'associazione che dice difendere, che è creata per difendere quello che sono le quello che loro dicono le discriminazioni degli ebrei. ebrei, esatto. Ma il presidente di questa associazione, è stato un avvocato che ha difeso a fascisti in Madrid che hanno ammazzato ragazzi delle tifoserie di sinistra. Quindi, ma questo è a parte. Alla fine, quello che importa in questo caso è che, secondo me, rispetto a quello che dovrebbe essere. Secondo me questo reato non dovrebbe esistere, almeno come si applica in Spagna, questo reato di odio che loro dicono, ma se esiste, ovviamente qui non vedia, io non vedo senso penale in nessuna delle affermazioni che si fanno per Twitter e che sono denunciate. Certo. Non so se mi ha Sì, spiegato. no, perfettamente. Ti ringraziamo Giovanni, sei stato bravissimo, e speriamo ci sentiamo, ci aggiorniamo presto, speriamo che le cose vadano bene. Molte grazie a voi per...